Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua anche oggi con i Padri Eterni. Anche oggi una puntata particolare, una puntata in remoto. Io da Bologna, da casa mia, Matteo Bussola da casa sua a Verona. Ciao Matteo, buona domenica. Ciao Fede, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Continuiamo con queste puntate particolari, ma vogliamo esserci. Ricordiamo radio24.it, come sempre, il nostro indirizzo per poi scaricare il podcast. Padri Eterni at radio24.it, invece, se volete contattare la nostra redazione. Ovviamente anche un diario ormai settimanale della nostra quarantena. Matteo, come va con le figlie? Resistete? Resistiamo, Fede. Barricati in casa, come credo la maggior parte delle famiglie italiane. Posso dirti che da noi questa settimana è nevicato, quindi quantomeno abbiamo avuto un diversivo. Ah, questo però è stato un invito a uscire di casa, in giardino, dico? Sì, in giardino, sì. Diciamo che è durata poco, ma sai, per le bambine, per i bambini in genere, anche solo una spolverata è una promessa di qualcosa che viene solo pochissime volte l'anno. Stiamo cercando in tutti i modi di mantenere anche l'umore buono, anche se ancorato alla realtà, perché crediamo che sia importante, no? I nostri figli comunque dire la verità, guardare insieme i telegiornali, leggere insieme i giornali, capire quello che sta succedendo, ovviamente anche variando quelli che sono i toni o le spiegazioni a seconda dell'età dei ragazzi. Poi sono tantissime le iniziative che tanto ci piacciono e di cui anche oggi, insomma, ve ne racconteremo alcune. Però apriamo questa puntata con un ospite, è uno scrittore, sceneggiatore, un regista, una delle penne più amate della letteratura italiana, e in questi giorni ha scritto un articolo bellissimo, una sorta di lettera aperta sul Corriere della Sera, intitolata «Figlio mio, in questo mondo stravolto ti regalo la forza di un quando». Diamo il benvenuto a Donato Carrisi. Ciao Donato, buona domenica. Buona domenica a voi, buongiorno. Una lettera particolare, una lettera indirizzata ai tuoi figli, a un figlio che adesso non è ancora con te perché deve ancora nascere, e un figlio che non è vicino a te perché appunto le zone rosse, l'impossibilità di muoversi ti sta tenendo lontano da lui. Come è nata l'idea di scrivere queste parole? Ma in realtà non è nata l'idea. Io non avrei mai pensato nella mia vita di scrivere un articolo del genere, ve lo giuro, anche perché sono una persona molto riservata, custodisco gelosamente la mia privacy, non ho mai parlato dei miei figli, della famiglia. E ho scritto una mail al responsabile delle pagine culturali del Corriere della Sera, che è Antonio Troiano, e in quella mail è venuto fuori l'articolo. Mentre gli parlavo della mia situazione, dopo avergli chiesto come stai, in quella mail è venuto fuori l'articolo, perché si parte da questo, da questo convenevole, insomma, questa frase, questo come stai, che è una frase che usiamo spesso per distanziarci dagli altri, no? Per creare una distanza, perché non sappiamo mai come esordire nei discorsi. Ciao, come stai? Già vuol dire mettere una distanza. Invece improvvisamente questa frase ci avvicina, che è roba strana, eh? E qual è la forza di un quando? Beh, la parola che ci ripetiamo più spesso in questo periodo, quando. Non riusciamo a dire se, ma diciamo quando. Quando ricomincerà, quando vedremo la luce in fondo al tunnel, parliamo spesso di questo tunnel, e continuiamo a ripetercela questa parola, e decidiamo a volte di metterci davanti un punto di domanda, sapendo che non ci sono risposte, e altre volte invece lasciamo che sia soltanto un quando così in sospeso. Quando però ne parliamo con i bambini, io parlo spesso al pancione di Sara, per esempio, in questo periodo, pancione che è destinato a compiere, no, la fine del suo percorso entro i prossimi 2 mesi, e sto cercando di convincere Vittorio, perché così si chiamerà il mio bambino, a nascere nel 2021, per esempio. Non so se ci riuscirò, però insomma ce la sto mettendo tutta. Quando invece parlo con Antonio e parliamo del quando, è quando torneremo a vedere, che ne so, l'Inter, che è la sua squadra del cuore, stranamente. Io non sono interista, per cui lui di punto in bianco si è riscoperto interista, quindi il quando è relativo a questo. ed è molto dolce in questo caso la risposta dei bambini riguardo al quando con il punto di domanda. Donato, tornando al come stai, no? Che è diventata all'improvviso una frase di cui ci interessa sul serio la risposta, soprattutto quando la facciamo ai nostri figli o ai nostri genitori, no? Tu dici che da adesso in poi nessuno potrà più permettersi il lusso di ignorare come stanno gli altri, perché siamo tutti connessi. Secondo te questa cosa ce la ricorderemo anche quando questa buriana sarà passata? Certo, io sono convinto che ci stia cambiando profondamente. Avevamo bisogno di un cambiamento radicale, avevamo bisogno soprattutto, perché vi faccio notare una cosa, questa epidemia è esplosa nel momento di maggiore accumulo di rabbia dell'umanità. Noi abbiamo fatto di internet la cloaca dei nostri peggiori istinti, dei nostri peggiori rancori. Negli ultimi anni questa grandissima innovazione che ci ha cambiato la vita era diventata un po' appunto il water in cui scaricare tutto, tutte le nostre parti peggiori. Io non dico che adesso non sia così, però sta venendo fuori da quel miasma, da quella melma, un'umanità nuova, ed emerge attraverso la rete, perché è l'unico mondo esente da virus. Noi abbiamo cercato in questi anni di difenderci il più possibile dai virus che venivano da internet, no? Che fossero virus elettronici, informatici, o virus appunto di rabbia o di rancore. E invece il virus è venuto fuori nel mondo reale, ed è strano che internet stia guarendo mentre il mondo si ammala. Donato, tu in questi giorni stai vivendo nella tua cameretta da ragazzo, no? Sei in Puglia, nella casa dove sei cresciuto. Immagino anche i tanti ricordi, la memoria della tua infanzia. Sono settimane, sono giorni in cui ti senti più figlio o più padre? È difficile da dire, è molto complicata questa cosa, questa risposta, perché in effetti abbiamo perso totalmente questa distinzione. Noi siamo diventati, crescendo un po', i genitori dei nostri genitori, e in questi momenti particolari chiediamo ai nostri figli di farci coraggio, come se ci avessero generato loro. Io penso che se avessi qui la mano di mio figlio, che è lontano da me, e se potessi stringerla, sicuramente troverei molta più forza in questo frangente. Tant'è che me lo sogno tutte le notti, ormai è un appuntamento fisso, lo so. Donato, noi scrittori, anche noi scrittori, siamo diventati all'improvviso possibile veicolo di contagio, no? Attraverso le presentazioni che facciamo, proprio per la quantità enorme di persone che incontriamo. Come hai spiegato a tuo figlio, se glielo hai spiegato, magari per giustificare la distanza che adesso c'è fra di voi, che anche il lavoro di papà è diventato all'improvviso un lavoro che tratta di bellezza, un lavoro potenzialmente pericoloso? Ma guarda, gliel'ho spiegato così, perché gli ho raccontato, quando ci siamo separati, il motivo per cui avevo sospeso le presentazioni dei libri. Io sono sceso in Puglia il 21 febbraio per fare un piccolo tour di presentazione del mio ultimo libro, ed è successa una cosa strana. Mi sono reso conto della gravità della situazione che si stava creando, anche parlando con gli amici medici, parlando con gli amici giornalisti del Corriere della Sera, e ho interrotto il tour. L'ultima tappa del tour l'ho fatta in un teatro, con un distanziamento rispetto alla platea. Io venivo dalla Lombardia, per cui sentivo proprio il dovere di tenere a distanza, e ho comunicato al pubblico che non avrei firmato le copie. Ecco, molti l'hanno presa bene, l'hanno presa altri, quelli che non si rendevano conto della situazione chiaramente si sono arrabbiati. Ma come, ma Carrisi, siamo venuti fin qui, abbiamo fatto tanti chilometri. C'è stato in particolare il caso di una mamma che aveva accompagnato la figlia alla presentazione, che su un noto social network, su Instagram, mi ha mandato un messaggio privato bestemmiandomi i figli perché avevo reso infelice la sua bambina. Io questa cosa non l'ho mai voluta dire, non ho mai voluta rendere pubblica, ovviamente terrò segretissimo il nome della signora, però questo segna molto la differenza tra ciò che era prima, tra ciò che ci potevamo permettere prima e ciò che non ci possiamo più permettere adesso. Non ci possiamo più permettere il facile giudizio, questo non ci possiamo più permettere, ed è così che la racconterò ai miei figli un giorno. Dirò: vedete, questo era il prima e poi c'è stato il dopo, questo era il delirio del prima che non deve più tornare, non soltanto non deve tornare più questo Covid-19, ma non deve tornare quel delirio di odio e di rancore, questa mala fede che c'era prima di questo momento. Donato, grazie davvero per essere stato con noi in questa puntata dei Padri Eterni, un saluto a te, un saluto a Sara, in bocca al lupo per i vostri ragazzi. Grazie davvero, buona domenica. Buona domenica. Adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Superhero, or even if I tumble fall. Eccoci qua, ancora i Padri Eterni. Questa settimana stiamo raccontando tante storie ovviamente sollecitate dall'attualità anche tragica, ma l'attualità anche piena, per fortuna, di speranza, di storie virtuose, no? di impegno. Ci sono storie davvero bellissime, storie familiari anche, tante storie di padri e figli, e ne abbiamo parlato anche le settimane scorse. E oggi vogliamo farvi conoscere quest'altra storia, è una storia di assoluta quotidianità, è la storia di una famiglia, di una famiglia però particolare perché il papà è a casa con i tre figli e la moglie invece è un medico, quindi è in prima linea appunto nella lotta al coronavirus. E queste storie questo giorno per giorno sono raccontate in un blog che si chiama mylovelysuperhero.blogspot.com. c'è con noi il papà, diamo il benvenuto a Paolo Fossati, che è un collega e collaboratore del Giornale di Brescia. Ciao Paolo, buona domenica. Buona domenica a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie mille dell'invito. Allora Paolo, cosa stai raccontando nel tuo diario? Ma dunque, è nato in modo spontaneo questo blog, anzi sono nati prima dei post sui social che ho cominciato a scrivere nel momento in cui sono state chiuse le scuole, quindi alla fine di febbraio qui noi siamo a Brescia. Per dare delle informazioni agli amici, io sono un quarantenne, quindi la prima generazione che ha probabilmente tanti amici nel mondo, o compagni di scuole, di studi universitari che sono a Singapore, a Los Angeles, a Berlino, in Spagna. Non era ancora pandemia e volevo raccontare quello che stava accadendo qui. Poi mi hanno stimolato chiedendomi di più e nello stesso tempo il motivo principale, forse ho capito anch'io, di questa avventura è stato cominciare a stare vicino a Francesca, mia moglie, che è una rianimatrice, in un modo un po' diverso. Non è possibile starle vicino durante i lunghissimi turni, 12 ore sono le classiche ore che fa, anche fuori dall'emergenza, diventa anche 14 in questo periodo, o di giorno o di notte, però posso in qualche modo starle vicino del tempo in più e in un modo molto diverso quando lei desidera, andandosi a leggere alcuni pensieri che magari è anche più facile raccontare scrivendo piuttosto che parlarne. Non ultimo, abbiamo tre bambine, per cui mi stavo interrogando anche su come raccontare a loro e come spiegare a loro quello che stava accadendo, e la realtà di giorno in giorno ci ha stupito sempre più, e quindi ogni giorno cerco di inventarmi il modo di fare quello che sta diventando una sorta di romanzo di informazione, mi piace chiamarlo così. C'è serenità perché siamo una famiglia che cerca di vivere tutti i momenti normali della vita quotidiana, avendo già una certa dimestichezza con l'emergenza, perché la mamma appunto anche nella vita fuori da questo periodo particolare fa dei turni, come vi dicevo prima, insomma, e vive delle situazioni legate a, non solo alla sofferenza, ma proprio al punto tra vita e la morte, insomma, e quindi siamo abituati a prendere la vita seriamente, ma anche con serenità. E poi c'è la paura, che immagino, la paura delle tue figlie per quella che è la situazione fuori, che è poi la paura che hanno tutti i nostri figli, e forse c'è anche la paura per la mamma che fa un lavoro in prima linea, un lavoro rischioso. Come si racconta, come si affronta la paura da padre? Allora, devo dire che forse il clima costruito a priori aiuta, nonostante tutte queste paure che sono veicolate anche dai mezzi di comunicazione, che devono fare svolgere la propria funzione, però in questo periodo fanno proprio un conto, no? Delle vittime, anche di chi guarisce, però anche delle vittime. Quindi la paura, insomma, la percepiamo, però non la viviamo in maniera bruciante, perché è giusto parlarne, è giusto rinuncia per rinuncia parlare delle rinunce, ad esempio per delle bimbe non vedere i nonni per cautela, soprattutto anche per i nonni, questo subito l'abbiamo vissuto, perché Francesca, mia moglie, ha capito che sarebbe stato bene proteggere chi è un po' più magari sensibile a questo virus. E quindi sì, le paure ci sono, pensiamo, ma non troppo, pensiamo alla mamma, si raccontano come eroi, ecco, parlo al plurale perché è una cosa importante da dire, questo, le motivazioni della nascita del blog ve le accennavo, ma ce n'è una anche importante, che è stata quella di trasformare Francesca in un personaggio. Lei può rileggersi, ma tutti possono leggere un nome, e lei è Francesca, noi siamo la sua famiglia, ma siamo lo specchio di tutte le famiglie, dei sanitari, forse non solo, c'è anche chi lavora nei supermercati ed è stato a contatto con orde barbariche di clienti senza mascherina che svaligiavano i supermercati, ha vissuto una prima linea. Mi arrivano delle testimonianze così, adesso che si è un po' diffuso, insomma, questo indirizzo del blog, c'è anche tanta condivisione con tante persone rispetto a questi temi. Quindi sì, le paure ci sono. Un punto particolare, se vogliamo, forse anche un piccolo ingrediente segreto, viene dal mio lavoro, perché se Francesca è una rianimatrice, io in qualche modo sono un animatore culturale. Insegno cinema, scrivo di cinema per il Giornale di Brescia, per cui nei brevi testi, che non sono nemmeno brevissimi, che sto scrivendo giorno per giorno, inserisco il più spesso possibile dei riferimenti all'universo condiviso, quello delle grandi storie, dei film, anche dei libri, anche della sociologia ogni tanto, in modo che questo terreno comune, che mi piace sempre utilizzare nella relazione educativa, in questo momento venga utile dal punto di vista specifico. Mamma, se deve essere una supereroina, ho detto alle bambine che è la mamma degli incredibili, Elastic Girl, che riesce a fare anche, diciamo, slittare il tempo, non soltanto ad allungarsi lei, nel senso che è una mamma che poi quando torna a casa fa la pasta fatta in casa con le bimbe, anche se ha lavorato di notte, e queste notti non sono mai notti in cui si riesce a sdraiarsi un attimo. Paolo, guarda, io ti avrei voluto chiedere quanto amore, quanta forza, no, ci vogliono per vivere l'incredibile contrasto tra l'enorme difficoltà e rischio che c'è negli ospedali e la serena tranquillità domestica di casa vostra. Ma la cosa bella, in realtà, leggendo il vostro blog, è questo, che paradossalmente a volte è proprio tua moglie che attraverso il suo lavoro, il suo operato, porta a casa a voi immagini di speranza. Mi riferisco per esempio a quel racconto di quel paziente che è stato estubato finalmente, tramite un tablet gli hanno fatto vedere la sua famiglia, i suoi cani. Cioè, tua moglie porta a casa anche delle immagini di speranza. Sì, molto bella, assolutamente. Io e Francesca siamo insieme da 20 anni, eravamo studenti quando ci siamo conosciuti, quindi ho conosciuto tantissimi medici in questi anni e so che loro sono molto bravi a vivere, soprattutto quelli dell'emergenza, a vivere i tempi dell'attesa di quando un telefono deve suonare e devi partire con l'automedica per andare su un incidente stradale, oppure quelli del ricevere un paziente in rianimazione da subito valutare. E sono abituati a questo e ai tempi dell'attesa che non sono, sarebbero vivibili senza una serenità, anche dei dialoghi, insomma, che diventano quelli che nelle relazioni poi sul posto di lavoro capitano, delle amicizie, un po' di vita. E quindi lei li porta a casa, io so anche, conosco anche molte delle persone con cui lavora, e quindi ci tengo, appunto, avendo scelto una cornice in cui i personaggi del racconto siamo noi, chiaramente ho margine, non ho tantissimo margine di movimento, però ci tengo a raccontare tutto come nel modo più universale possibile, perché il respiro di queste situazioni in cui lei torna e mi dice, appunto, come citavi, abbiamo estubato un paziente, tra l'altro una delle prime volte che mi raccontava questo, per cui siamo anche davanti a una sorta di momento di felicità nostra, ma anche collettiva, di vedere che si guarisce da questo virus, non sempre purtroppo, abbiamo visto tante cose drammatiche. Però è bene ricordare che ci sono storie belle. Poi abbiamo avuto qui a Brescia tanta solidarietà, hanno anche regalato dei tablet ai reparti attraverso la beneficenza, che sembra una cosa strana, ma in realtà cosa servono? A fare una videochiamata a casa quando è possibile, perché sono isolati questi pazienti. Quindi quando è tornato a casa mi ha raccontato che facevano fare il primo saluto a casa a questo paziente che stava meglio, e mi ha raccontato che diceva siete bellissimi, e poi si riferiva anche ai suoi cani vedendoli in video. Cioè, diventa anche poi divertente, sempre con rispetto, almeno questo è quello che cerco di fare, e diventa piacevole costruire aneddoti, cioè gli aneddoti capitano, e andare a lavorare un po' di scrittura per renderli piacevoli ai lettori. Ce ne sono poi tantissimi legati alla famiglia, perché hanno 3 bimbe, dai 4 ai 12 anni, succedono cose molto divertenti in casa spesso. Paolo, grazie davvero per questa tua testimonianza e per il tuo blog, che insomma mai come in questi giorni mi sembra davvero prezioso. Ringraziamo e salutiamo Paolo Fossati, ricordiamo mylovelysuperhero.blogspot.com, l'indirizzo del blog che abbiamo già pubblicato anche sulla nostra pagina Facebook e troverete anche sul nostro sito radio24.it. Grazie davvero Paolo, e in bocca al lupo per tutto, buona domenica. Grazie a voi, anche a voi, state bene. Ciao Paolo. Noi ci fermiamo nel momento del meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943. Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino. Il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchesi e dal 3 aprile vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia. Ogni venerdì in podcast su radio24.it. Padri Eterni. Yeah, that's right. right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right. He's got game. PE 1998. If man is the father, the sun is the center of the earth. In the middle of the universe, then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? Human beings screaming vocal javelin. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni. Radio24.it, il nostro sito, insieme fino a mezzogiorno per parlare di padri, per parlare ai padri e anche per avere un po' di dritte, un po' di consigli per questi giorni, giorni complicati per tutti. Settimana scorsa abbiamo dato lezioni anti-sbrocco, appunto perché comunque la convivenza, soprattutto con gli adolescenti, diventa anche difficile, non solo per noi genitori, ma soprattutto per loro, per i ragazzi e le ragazze. Oggi vogliamo toccare un altro aspetto, che è quello dei videogame. I nostri figli stanno ore davanti ai monitor in queste giornate, tanto per la scuola, per le lezioni online, ma tanto anche per giocare. C'è quindi la preoccupazione, no? C'è la classica frase: Matteo, tu da padre ogni tanto dici alle tue figlie spegni quelle videogame? Di continuo glielo dico, ma devo dire che mi ignorano abbastanza bellamente. E noi insomma abbiamo quindi invitato un esperto in materia, è uno psicologo e psicoterapeuta, è un amico dei Padri Eterni, è autore di un bellissimo libro intitolato I giovani non sono una minaccia, anche se fanno di tutto per sembrarlo, edito da Cittanuova. E un paio di giorni fa ha rilasciato una bellissima intervista a un'agenzia di stampa, l'Agenzia Italia, in cui diceva: non preoccupatevi se i vostri figli giocano tanto con i videogame. Diamo il benvenuto ad Alberto Rossetti. Ciao Alberto, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, sei diventato lo psicoterapeuta preferito dalle ragazze e dai ragazzi, credo, dopo questa tua affermazione, lo sai, vero? Sì, immagino. Davvero non dobbiamo preoccuparci? Ma il mio ragionamento è un po' questo, cioè che i ragazzi come tutti noi si sono trovati improvvisamente a vivere un tempo completamente differente, no? In cui dal voler uscire, dallo stare fuori, dal avere le loro attività, sono trovati come tutti chiusi in casa. E chiaramente le attività anche videoludiche aumentano, perché quello è un tipo di intrattenimento, divertimento che già prima molti ragazzi facevano e che in questo momento diventa qualcosa che può riempire le giornate, può far fare delle esperienze, può tenere in relazione con gli altri amici. Poi è chiaro che all'interno di questo discorso poi ci saranno dei casi specifici che possono anche preoccupare, però in linea di massima secondo me il videogame può essere, a maggior ragione in questo periodo, un'attività, un'esperienza che i ragazzi fanno in casa, e molto spesso la fanno anche in compagnia, perché molti giochi poi si giocano online, no? Dandosi magari anche un appuntamento, quindi può essere ancora più importante. Alberto, senti, molte persone hanno dichiarato in questo periodo, per esempio, di non riuscire a leggere perché sembra che facciano fatica a calarsi in storie diverse da quella sconvolgente e incredibile che stiamo vivendo, no? Mi chiedevo, in questo senso, i videogiochi sono diversi? Hanno delle peculiarità che possono aiutare a distrarre la nostra attenzione rispetto anche all'angoscia che ci può venire e dunque magari a farci ricaricare le pile? Sì, effettivamente col fatto che il videogioco attraverso le immagini e attraverso anche un'attivazione maggiore da parte del giocatore, che può essere un ragazzo ma anche un adulto, chiaramente porta con più facilità a entrare in un'altra storia, entrare in un'altra dinamica, che forse è un po' più, può essere un po' più complessa invece con l'esercizio della lettura. Da questo punto di vista l'identificazione, no? Che poi è anche uno, se vogliamo, delle problematiche che possiamo incontrare in alcune situazioni, ma l'identificazione con il giocatore, col personaggio del gioco, è più immediata, è più forte, è più veloce, e quindi chiaramente la distrazione può essere maggiore, e alla fine del gioco in qualche modo io posso effettivamente essermi distratto, non aver pensato per un po' a quello che sta capitando. Quindi siamo disposti a non dire più smettete di giocare, ma possiamo dire in quanto padri giochiamo insieme? Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo è anche un tempo in cui molte persone hanno ritrovato del tempo nuovo che prima non avevano più. E quindi se prima quel tempo per sedersi accanto a un figlio e interessarsi ai suoi giochi, proporgli anche dei giochi, non c'era, oggi ce n'è di più, forse non per tutti ma per molte persone ce n'è di più, e quindi perché no, perché non vivere il videogame non solo come uno strumento del ragazzo, no? Come qualche cosa che il ragazzo fa ed è qualche cosa di solo suo, ma di viverla assieme, no? di prendersi un tempo in cui quel gioco, magari anche un gioco diverso da quello che normalmente fa il ragazzo, diventa il gioco da fare insieme. Può essere certamente un'occasione. Poi, come tutte le cose, secondo me non bisogna neanche insistere troppo, perché se c'è il ragazzo che invece vuole viversi quel momento come il suo momento, in cui gioca al suo gioco e vuole mantenerlo proprio, il proprio spazio, lasciamoglielo, insomma, ci mancherebbe altro. Però è un'occasione che forse oggi ci è data in un momento in cui, insomma, le occasioni sono poche, quindi forse si può provare a cogliere. Alberto, tu prima dicevi, no, che per i ragazzi quello dei videogiochi può essere anche un modo per continuare ad avere relazioni con i propri coetanei. Mi chiedevo quanto questo può diventare a un certo punto anche una scusa per continuare a giocare, o quanto invece è verità. In altre parole, quando è che noi genitori possiamo rivendicare il diritto di dire adesso basta, forse stai esagerando? Ma allora, secondo me adesso basta, stai esagerando, quel diritto ce l'abbiamo sempre, nel senso che penso che poi ogni genitore conosce il proprio figlio, e se lo vede, se vede che le cose non vanno bene, che comunque c'è un'esagerazione che non fa bene al figlio, deve qualche modo intervenire. Però secondo me sono due i segnali che possono aiutarci. Non bisogna far prendere delle abitudini eccessivamente malsane, e in questo momento sono due le abitudini malsane. Una è quella di scambiare la notte per il giorno, e quindi giocare tutta la notte, svegliarsi a metà pomeriggio e ripartire. Non importa che siamo in quarantena, non importa che è tutto chiuso, quella è un'abitudine che in qualche modo non va bene, un segnale negativo. E dall'altra parte il saltare i passi, no? I momenti in cui invece è bene che, anche se insomma siamo già tutti in casa, la famiglia possa comunque fermarsi. In qualche modo tenere un ritmo della giornata, il videogioco non deve esagerare da questo punto di vista. E invece per quel che riguarda il giocare assieme, io penso che oggi noi abbiamo un tempo, che è un tempo che improvvisamente è stato svuotato di appuntamenti, è stato svuotato di attività, è stato svuotato di tutto, e per un ragazzo è molto complicato, come anche per l'adulto, ma per lui soprattutto, dare un senso a quel tempo, un senso nuovo. E anche un appuntamento con degli amici alle 4 del pomeriggio per giocare a Fortnite è un qualche cosa che segna un prima e un dopo quell'appuntamento, che in qualche modo fa aspettare quel momento, fa prepararsi a quel momento, e poi c'è un dopo in cui magari con gli amici si parla del gioco, e quindi in questo momento può essere davvero qualche cosa di utile. Poi chiaramente sono ragazzi, e quindi anche su quello ci sarà un'esagerazione, e lo si vivrà magari anche un po' con una scusa, ecco. Anche in questo periodo i ragazzi restano ragazzi, non dobbiamo dimenticarcelo. Prima di salutarci, dacci un ultimo strumento operativo. Ci sono giochi migliori o peggiori di altri? Guarda, sicuramente sì, dipende dall'età del figlio e dipende da come lui reagisce ai giochi. Prendo Fortnite, ci sono alcuni ragazzi che giocando a quel gioco si innervosiscono tantissimo, diventano aggressivi, mentre magari se fanno altri giochi sono molto più tranquilli. E poi ci possono essere dei giochi che invece possono raccontare delle esperienze, possono far vivere delle situazioni, no? Anche emotive, intense, belle, che magari possono essere proposte. Quindi il mio consiglio è quello di osservare il figlio. Non è che va bene tutto in questo momento perché si è messi così, continuiamo ad osservare, continuiamo a capire, e poi sulla base di quello facciamo anche delle proposte e proponiamo un gioco piuttosto che un altro. Grazie davvero. Ricordiamo, i giovani non sono una minaccia, anche se fanno di tutto per sembrarlo. Città Nuova, un libro che assolutamente vi consigliamo, perché è una bella lettura per capire qualcosa di più dei nostri figli. Un saluto ad Alberto Rossetti e grazie come sempre per essere stato con noi. Ciao Alberto. Ciao, ciao a tutti, buona domenica. Ciao Alberto. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Sono la regina ed il mio regno è la cucina. Tutta sola non pulisco, io non cucino e non lavo. Sto seduta e fumo e mangio immagini di a capo. E ci avviamo alla chiusura di questa puntata dei Padri Eterni. Matteo, lo facciamo parlando di una delle tue passioni, la cucina. Quindi, insomma, sarai felice. Okay. Sono allora, molto contento. Certo, e lo facciamo insomma con il migliore chef italiano, che anche lui in questi giorni di quarantena ha avuto una bellissima intuizione che coinvolge tutta la sua famiglia, ed è quella appunto di mettersi ai fornelli su Instagram. Diamo il benvenuto a Massimo Bottura. Buona domenica, Massimo. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti. Ciao Massimo. Allora, hai chiuso la tua osteria e hai aperto Instagram di fatto? No, ma no, a parte che non è stata mia l'idea, è stata di mia figlia, ma perché è successo tutto durante il primo giorno di quarantena. E ero in cucina, stavo preparando la prima cena di quarantena, era domenica sera, e quindi... cioè, lei era collegata con tutti i suoi amici, che sono poi ragazzi che io conosco da quando sono nati, perché abitano tutti qua vicino, e stavano facendo questo aperitivo virtuale. Mi hanno visto su Skype che ero lì in cucina, che stavo preparando, e ho cominciato: ah Massimo, cosa sta preparando in cucina? Allora gli ho cominciato a far vedere il guacamole, gli ho fatto vedere altre cose, no? Una pasta al pomodoro. E niente, e da lì il giorno dopo Alexa mi dice: ma papà, ma visto che dobbiamo essere in casa, siamo qui, perché non facciamo una diretta su Instagram TV? Cosa? Cos'è? Postiamo su Instagram? No, è una diretta TV. E poi dopo mi ha spiegato tutto che cos'era, eccetera, e ci siamo messi lì così, per scherzo, no? Partendo con una diretta in italiano. Ma i primi commenti cominciavano ad arrivare da tutto il Sud America, dal Giappone che si era appena alzato, e così. Allora abbiamo cominciato a parlare in inglese, no? Perché anche le domande arrivavano in inglese. E da uno scherzo, cioè da un'intuizione così, non facendo una masterclass, perché la nostra non è una masterclass, ma è solamente un modo di condividere un po' di gioia e di felicità alle 8 di sera con le famiglie che sono chiuse in casa, ci siamo ritrovati ad avere centinaia di migliaia di visualizzazioni ogni giorno. Quindi questo è Kitchen Quarantine, questo è il titolo che avete dato alla serie. Ma che soddisfazione c'è a fare questa cosa insieme ai tuoi figli? No, è straordinario. No, è straordinario, perché proprio non ci sono filtri qua. Cioè, noi lo facciamo tutto senza filtri. Cioè, Charlie arriva col suo pigiama e lui vuole venire col suo pigiama. Charlie è un ragazzo diversamente abile, che ha tutte le sue fisime, che è abituato a mangiare bene, ma che però quando è grumpy, cioè non ci si riesce ad andare alla tenda. Se lui vuole i tortellini, vuole i tortellini. Però la cosa bella è che si è adeguato a questo, all'inaspettato, e quindi tutto quello che succede durante il giorno, le preparazioni, le cose che facciamo, lui ha capito che sono interessanti, ha capito che vuole essere lì, ed è diventato il nostro DJ, come l'Alexa, che è la nostra voce fuori campo. È una cosa straordinaria. Cioè, io sono abituato a lavorare con mia moglie, perché lavoriamo insieme ormai da 25 anni, perché tutto il progetto della Francescana, di Maria Luisa, della Franceschetta, di Food for Soul, sono tutti progetti che abbiamo fatto insieme, ma anche il tortellante. Alla fine essere qui in casa, usare questo tempo che ci è stato regalato per noi, solo per noi, così ci hanno tolto tutto e ci hanno lasciato solo l'essenziale, e usarlo per fare, per creare qualcosa di bello, perché alla fine i commenti sono 99.9% strapositivi e straentusiasti. E poi soprattutto così isolati ma così connessi col mondo, cioè è una cosa pazzesca, una sensazione meravigliosa. Massimo, ascoltandoti pensavo, no, che tu ci ricordi costantemente quanto è importante la tavola, la cucina, l'atto stesso del cucinare, soprattutto in un momento come questo, perché poi diventa anche un modo per raccontarsi storie o per scriverne di nuovo insieme, no? Forse questo periodo, come tu stavi dicendo, può servire davvero a ricordarci che la cucina non è solo mangiare, ma è soprattutto un modo di stare. Per noi è sempre stato così. Nella mia famiglia, io sono cresciuto in una famiglia allargata, e mia madre, mi ricordo quando ristrutturarono casa mia negli anni, l'inizio degli anni 70, lei volle abbattere il muro tra la cucina, cioè il luogo dove si cuoceva, e il luogo dove si stava, perché lei voleva una cucina aperta, perché la cucina, secondo lei, lei ci diceva sempre che la cucina è il luogo dove tutti si siedono, tutti si danno una mano, tutti vengono a piegare i tortellini, dove si sogna insieme, si sta insieme, si litiga, si fa pace, ma si progetta il futuro insieme. Ecco, questo è il modo, io sono cresciuto in una cucina così, ed è per quello probabilmente che la Francescana è una grande famiglia, e Food for Soul è questo luogo meraviglioso, sono questi luoghi meravigliosi, pieni di bellezza, dove accogliamo la gente di tutto il mondo e combattiamo questo spreco del surplus che produciamo del cibo. Massimo, una delle puntate più viste ovviamente è stata quella sui tortellini. Hai messo in sfida tra loro sera. I tortellini al brodo contro i tortellini alla panna. No, chi ha vinto? Sì. Beh, ma siamo usciti con un 2-2. Abbiamo fatto, io e Charlie abbiamo scelto i tortellini in crema di parmigiano, mentre Lara e Lex hanno scelto i tortellini in brodo. Quindi abbiamo fatto un pareggio anche qua. Sono sempre un compromesso storico i tortellini, né alla panna, né in brodo, né in crema di parmigiano, è sempre così. Grazie davvero. Ricordiamo allora tutte le sere alle 20 su Instagram TV, appunto nel tuo profilo, immagino, con questo bel appuntamento, un appuntamento familiare però aperto al mondo, la cucina in inglese, quindi anche un bel ripasso delle lingue. È un misto. Adesso con tutte le proteste che abbiamo ricevuto da parte degli italiani, ma devi parlare in italiano! Io dico, ma scusa, ma ci seguono dappertutto, ci seguono da tutto il mondo, ragazzi, dai, non possiamo parlare solo in italiano. E allora facciamo l'italiota, metà inglese, metà italiano, così nessuno capisce niente ed è un bel modo per stare insieme. Grazie davvero Massimo Bottura per essere stato con noi in questa puntata, ragazzi, di Padri Eterni. Ciao Massimo, tutti, buona domenica. Ciao Massimo, grazie. Ciao. E noi ci avviamo alla chiusura, però Matteo, ho una sorpresa per te. Come forse ricordi, qualche settimana fa abbiamo fatto una lezione per il sito Lezioni sul Sofà, sul come fare un'intervista radiofonica a mamma e papà, ti ricordi? Certo. E abbiamo dato tante indicazioni. Giulia, una ragazza delle elementari, si è messa all'opera e ha fatto un'intervista a mamma e papà, e insomma ci ha mandato il montato, e siamo ben felici di farlo sentire in chiusura di questa puntata. E cogliamo l'occasione per ringraziare tutta la squadra di Radio 24. Ringraziamo come sempre gli amici di Radio Immaginaria che ci hanno dato supporto per realizzare la puntata di oggi. Radio24.it, il nostro sito. Ciao Matteo, alla prossima settimana. Ciao Fede, buona settimana a te. E noi vi salutiamo con Giulia e la sua famiglia. Signore e signori, benvenuti. Questa sera andrà in onda lo speciale Casa Gentile. conoscere nel dettaglio tutta la mia famiglia. Partiamo con il primo ospite. Ecco a voi mio padre, Matteo Gentile. Papà, sei contento che ora ci vediamo molto molto di più? Sì, amore, sono contento che ci vediamo di più, però non vedo l'ora che tu e tuo fratello torniate a scuola. Papà, con l'emergenza coronavirus abbiamo tutti dovuto rinunciare a tante cose. Ti manca andare in giro a suonare? Beh sì, mi manca tanto, però cerchiamo di tenerci in contatto io e quelli con cui suono. Anzi, stiamo cercando di usare i social media, quindi pure Facebook e WhatsApp, per suonare assieme anche se a distanza e ognuno a casa propria. Bene, salutiamo papà e un caloroso applauso a mamma Teresa. Mamma, sei contenta di avere a casa me e Andrea dalla mattina alla sera? Assolutamente no. Mamma, qual è la prima cosa che farai quando non ci sarà più il virus in giro? Penso che la prima cosa che farò sarà abbracciare tutti quelli che finora non ho potuto abbracciare, tipo i miei genitori, mia suocera, i miei amici, i miei vicini di casa, tutti. Ok, grazie a mamma. E ora è il turno di Andrea, mio fratello. Andrea, sei contento di dover stare sempre a casa con me? Meglio il coronavirus.